Full stream. Via. Ritorniamo con la settimanale rassegna degli eventi del Wombat, più o meno settimanale perché ogni tanto salta e di questo ci scusiamo. È tutto uno scusarsi, tutto sommato. È tutto uno scusarsi. Allora basta, non ci scusiamo. Andiamo più sul lunedì 4 subito, a diritto. Polveriera, ore 19:30, assemblea dei collettivi universitari, quindi tipo ora, tra 35 minuti. Assemblea dei collettivi per discutere e collaborare, ogni primo lunedì del mese alle 19:31 con cena sociale. Presso il CPA, sempre stasera. No, aspetta. Cosa volevi dire ancora? No, vabbè, no, non dico niente, vai, ok. Assemblea dei collettivi universitari, venite e lo scoprite, vai, ok. Esattamente, CPA Firenze Sud, alle ore 22, proiezione di Amore Tossico, sempre oggi, lunedì 4. Quindi risicate, ma voi ce la fate per tutte e due volendo. Allora, martedì 5 invece, allo spazio Inchiostro, avremo la presentazione alle ore 18 del libro Miserie e Splendori dell'Urbanistica con Enzo Scandurra e Ilaria Agostini, che abbiamo sentito poco fa a Fuoco alle Polveri a telefono. Interverranno Ornella De Zordo e Alberto Ziparo e nulla, saranno presenti gli autori e sarà una bella occasione. Mercoledì 6, No Borders Firenze si incontra per preparare il campeggio itinerante che partirà il venerdì 7 e no, venerdì 8 e si concluderà domenica 9 nell'Alta Val di Susa presso la polveriera. Domenica 10. A margine dell'assemblea mi segnalano: ci organizzeremo tecnicamente per partecipare alla 3 giorni di lotta contro la frontiera italo-francese, che si terrà il prossimo fine settimana in Alta Val Susa, come stava dicendo. Quindi Grip, mercoledì 6 presso la polveriera, Brico, alle ore non si sa, nella sera. Giovedì 7 fuori fuoco alle 18:30 CPA Firenze Sud, appuntamento con officine cinematografiche e cena. Venerdì 8, come si è detto, il campeggio itinerante, ma andiamo direttamente a sabato 9 e domenica 10 con il torneo di calci dal basso presso il Cecco Rivolta nel pomeriggio dalle 3 in poi. Sabato 9, da segnalare anche alla ciclofficina di fare spazio, ci sarà a partire dalle 18:30, anzi no, dalle 16:30 un mercatino, e alle 18:30 un'asta di biciclette, tutte rimesse a posto dai volontari della ciclofficina di fare spazio. Segnalano anche che sarà probabilmente l'ultimo evento che faranno in quel posto, almeno per quest'anno, almeno per quest'estate. Quindi accorrete a salutare, fare spazio. Niente, poi con questo abbiamo concluso, signori. Non scordatevi Coccoli al Silicio alle ore 21:30. Buona settimana dal Wombat. Buona Wombat settimana. Rassegna eventi.